E così feci. Non riuscivano a credere che uno poteva correre tanto senza una ragione particolare. Ma perché fa questo? Avevo voglia di correre. Avevo voglia di correre. E per chi decide di andare a correre? Allora, iniziamo dai fondamentali, iniziamo dalla scarpa. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Fulvio Massini, consulente per l'allenamento, coordinatore tecnico di Runner World Italia e autore di Andiamo a correre. Ciao Fulvio, bentornato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Fulvio, che ne dici se iniziamo dal peso? Dobbiamo sapere che tutte le volte che noi appoggiamo terra mentre corriamo nella parte posteriore, diciamo del piede, sì, va tre volte il peso del corpo, per cui una persona di 70 kg in realtà la scarpa deve sopportare 210 kg nella parte posteriore, nella parte anteriore invece è il doppio del peso del corpo, per cui sempre la stessa persona che pesa 70 kg la scarpa dovrà sopportare 140 kg. Quali caratteristiche deve avere? Deve essere più protettiva, diciamo. Cioè? Cioè più protettiva, cioè deve avere un'intersuola piuttosto spessa. Ok. Piuttosto con un dislivello, per entrare in termini tecnici, piuttosto accentuato, che deve essere diciamo sopra il centimetro. Mentre una persona più leggera, una persona che pesa 65 kg, si può permettere anche di avere una scarpa un po' più leggerina, meno protettiva, un pochino più leggerina. Scarpa protettiva, come questo intendo io, pesa intorno a 350 grammi, 380 grammi. Okay. Una scarpa invece, così, per una persona più leggera, senza grandi pretese, pesa intorno a 300-320. Abbiamo parlato di peso, parliamo anche di genere. Uomini e donne hanno piedi diversi, generalmente pesi diversi, immagino anche scarpe da runner diverse. Sì, la scarpa da donna è diversa, perché la donna ha sostanzialmente il piede più affusolato, meno largo rispetto a quello dell'uomo. E quindi ci sono... le ditte fanno delle scarpe adatte a questo. Andiamo a un altro punto. Abbiamo guardato il peso, il genere, quindi maschio o femmina. Guardiamoci i piedi però, perché i piedi sono diversi. Ci sono quelli piatti, quelli un po' che cadono verso l'interno, quelli che appoggiano un po' verso l'esterno, quelli un po' più tozzi, egizi, romani. Insomma, Fulvio, a ogni piede la sua scarpa. Sì, ogni piede la sua scarpa. Sostanzialmente le scarpe si dividono in due categorie, le scarpe con un supporto antipronazione, cioè per evitare che il piede nella sua fase di appoggio ceda eccessivamente verso l'interno, sì, e le scarpe neutre. Queste sono anche per evitare problemi, diciamo, di eccesso di supinazione, ovvero di eccesso di appoggio sulla parte esterna del piede. Però queste in genere vengono usate le scarpe cosiddette neutre, per cui le scarpe si dividono in due categorie, le scarpe antipronazione e le scarpe neutre. Chi ha bisogno della scarpa? Dell'antipronazione? Chi... La scarpa antipronazione ha bisogno chi effettivamente ha un'accentuata, ma molto accentuata, fase di pronazione in fase di appoggio, cioè quando il piede cede molto verso l'interno. Dobbiamo sapere anche che un minimo di pronazione è fisiologica, è naturale. Chi invece prona molto e prona molto con tutti e due i piedi, allora si deve prendere le scarpe antipronazione. Quindi, dimmi dici Fulvio, io dovrei acquistare la scarpa in un negozio specializzato e soprattutto dovrebbero essere provate, quindi, correndo magari su un tapirulan, così si capisce esattamente dove cade il piede, o sbaglio? E oggi i negozi specializzati fanno quasi tutti la prova dell'appoggio. Oggi nei negozi specializzati ci sono dei commessi che fanno la prova dell'appoggio e che guardano appunto queste caratteristiche. Ecco, cercate questi negozi e cercate questi commessi, è importante, non acquistate la scarpa da corsa così, di vostra iniziativa, senza sapere a quale modello affidarvi, proprio perché, come ci ha ricordato Fulvio, nel momento in cui corriamo il nostro peso viene distribuito in modo molto massiccio sui nostri piedi. Esatto, e poi è fondamentale, come stavi dicendo tu, provare la scarpa non soltanto stando seduto in piedi, ma provare a correre sulla scarpa, tant'è vero i negozi specializzati consentono di correre su tapirulan, addirittura c'è qualche negozio in Italia che ha una piccola pista all'interno del negozio, ma queste sono eccezioni, comunque una piccola corsetta sul tapirulan serve per capire se effettivamente la scarpa che è stata consigliata è la scarpa giusta, perché per esempio a parità di caratteristica una marca può andare bene rispetto a un'altra e un'altra marca no. No, quindi conviene certo sempre trovarsi a parità di caratteristica e di peso della scarpa almeno due o tre marche, in modo da trovare proprio la scarpa giusta. E poi dobbiamo decidere la scarpa anche in base al tipo di gara che pensiamo di affrontare, anche se siamo proprio agli inizi, magari se sono gare brevi, maratone, trail running, nessuna gara, magari vogliamo anche solamente correre un po' al parco. Fulvio. Sì, esatto, per correre un po' al parco va bene una scarpa normale, massima ammortizzazione, soprattutto per chi inizia. Sì, chiaramente è un atleta un po' più evoluto e diciamo corre a 15 km all'ora, da 15 km all'ora a una velocità più veloce, allora si può prendere le scarpe più tecniche, più leggere, che gli permettono di avere un'azione tecnica più efficace. Chi invece pensa di andare a correre su percorsi sterrati, in mezzo a boschi o anche semplicemente in campagna, oggi tutte le ditte stanno facendo delle ottime scarpe definite da trail running, addirittura in Gore-Tex, per cui uno può correre tranquillamente nel fango, sì, senza bagnarsi i piedi, e soprattutto hanno un grip, cioè hanno una suola che consente di attaccare, di aderire molto al terreno, e quindi si evitano problemi di scivolamento e la corsa diventa molto più divertente. Fulvio, grazie, a presto e buonissima giornata e buona corsa. Scrupolosamente buona corsa. Scrupolosamente buona corsa. Essere e benessere. Colleghi e gli amici sono partiti, ma noi siamo qua. Le vacanze prima o poi toccheranno anche a noi, ma al momento sono ancora un po' lontane, oppure sono già passate. E quel colorito pallido tendente al grigio esalta con una certa crudeltà la nostra stanchezza, senza contare che con i colori degli abiti estivi è davvero un po' stonato. Non che basti un po' di colore a cancellare la fatica dei mesi di lavoro, ma a volte un piccolo trucchetto aiuta. Per questo molti di noi ricorrono, e molti di noi, ma anche molti uomini, ricorrono alle creme autoabbronzanti oppure alle soluzioni spray, che sembrano avere il vantaggio di offrire un colorito più uniforme. Ma fermi lì. Se avete voglia di un colorito artificiale che sembri naturale, affidatevi ai consigli della nostra dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco. Dottoressa, buongiorno e bentornata. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti voi. Ciao tesoro. Wow. Ehi, smettila di guardare le gambe di mia moglie. No. Smettila di guardare le gambe di tua sorella. Scusa, è che è talmente abbronzata. Il colore lo danno con lo spruzzatore. Ah, con uno spruzzatore, hai detto? Comunque sia, il risultato finale è veramente fantastico. Forse lo farò anch'io. Allora, dottoressa, in commercio esistono tantissimi prodotti che regalano un bel colorito, ma come spesso succede, più l'offerta si fa varia, più scegliere diventa difficile. Intanto, ci spiega che cosa succede quando mettiamo un autoabbronzante sulla nostra pelle? Perché magicamente nel giro di poche ore acquisiamo una bella doratura? Allora, anzitutto vorrei sottolineare che i principi attivi autoabbronzanti in realtà non fanno produrre nuova melanina, ma colorano solamente la pelle, cioè creano una colorazione. Le molecole di idrossiacetone e eritrulosio, che sono delle molecole naturali, praticamente derivate dagli zuccheri, e sono i principi attivi che danno il fenomeno dell'autoabbronzante, del colore della pelle, non danno protezione ma danno un bel colore. Il diidrossiacetone è quello che tende a essere un po' più giallo scuro. L'eritrulosio, che deriva sempre dallo zucchero, dà un colore un pochino più rosato. La loro mescolanza crea dei colori oggi molto naturali, cioè non ci sono più quei gialli macchiati, quell'effetto un po' leopardo che c'era con gli autoabbronzanti di una volta. Certo che hanno dei nomi, dottoressa Serri. Sì, i nomi chimici e anche i nomi delle malattie dermatologiche ce li rendono sempre più ostici. In realtà questi sono molecole che sono derivate praticamente dalla classe degli zuccheri, per cui sono molecole direi anche ecocompatibili. Il segreto per l'autoabbronzante è, numero uno, applicarlo su una pelle lavata con un detergente possibilmente acido, perché così prende meglio il colore. Inoltre è opportuno devono levigare bene la pelle prima di applicare l'autoabbronzante, perché tende ad accumularsi laddove ci sono degli spessimenti di cheratina, quindi gomiti, quindi zone di pelle più spessa. Per cui è bene o massaggiare il corpo con uno scrub o col guantino di microfibra, oppure applicare dei prodotti leggermente sfoglianti a base di alfa idrossiacidi, tipo acido glicolico, che si può usare anche d'estate in una concentrazione del 10% nei 2-3 giorni che precedono l'applicazione dell'autoabbronzante. Così prepariamo per bene la pelle. Esatto. E poi dobbiamo scegliere crema o spray. Ci sono dei buoni motivi per indirizzare la nostra scelta, delle differenze per il viso e per il corpo? Beh, direi di sì. Lo spray è molto comodo, però è piuttosto difficile riuscire a ottenere un'abbronzatura, diciamo una colorazione omogenea. Gli spray sono molto belli, quelli della bronzatura spray, la bronzatura in bombola, che adesso è molto di moda. Al posto dei lettini a raggi UVA ci sono dei lettini a bronzatura spray che sono eccezionali e che dispensano, nebulizzano questi spray uniformemente sul corpo davanti e dietro. Ecco, questi si possono fare tranquillamente anche una volta alla settimana per mantenere il colore. A casa io ho provato ed è piuttosto difficile mettere lo spray, farlo asciugare e fare in modo che rimanga uniforme, ma si può provare. Gli spray sono molto veloci, vanno bene per esempio per le gambe, per le braccia. Invece per il viso è meglio ricorrere alle creme autoabbronzanti o alle emulsioni autoabbronzanti ed è meglio applicarle alla sera, cioè circa 12 ore prima di andare al sole. Dottoressa Serri, quindi il fatto di doverle applicare qualche ora prima, 12 esattamente prima di andare al sole, significa che è meglio darsi l'autoabbronzante magari a metà settimana, non proprio in vicino al weekend? Direi di sì. Però ci sono queste abbronzature chimiche che si fanno una volta alla settimana, ci sono gli autoabbronzanti invece, i cosmetici autoabbronzanti che si usano a casa, che si possono usare magari anche per i primi giorni, tutti i giorni, per i primi 5-6 giorni, per esempio tutte le sere, fino a ottenere il colorito che si vuole. E poi si possono applicare 2-3 volte alla settimana. Vi ricordo che è anche abbastanza opportuno sempre lavare bene il viso, anche con un guantino, con una spugnetta, per evitare che la colorazione si accumuli nei pori e tinga quindi gli accumuli di cheratina e faccia diventare più scuri questi accumuli di cheratina, creando un effetto simile punto nero. Assolutamente. Dottoressa Serri, autoabbronzante anche per riprendere, risvegliare, dare un più luce ad una abbronzatura che sta un po' spegnendosi. Si può sicuramente utilizzare, diciamo, per mantenere più a lungo il colore, ma l'autoabbronzante è molto utile anche in quelle persone che si abbronzano poco, quelle che possono stare al sole ore ma diventano al massimo rosse. Quelle per le quali il sole è ancora più dannoso, per esempio io lo vedo su me stessa, io mi abbronzo poco, soprattutto in viso, tendo a essere rossa, tendo a produrre quella feomelanina, cioè quella melanina tipica di chi ha la pelle celtica, tendente al rosso, chiara, quindi poco protettiva. Bene, l'autoabbronzante in queste pelli che tendono a arrossarsi crea un effetto di colore veramente esteticamente molto gradevole e permette, con una brevissima esposizione solare, ben protetta ovviamente, di avere quel colorito non più color terracotta come usavo un tempo, perché veramente è diventato, oltre che fuori moda, anche antiestetico, brutto, ma un bel colorito sano senza avere danni alla pelle. Dottoressa Serri, per applicare l'autoabbronzante sul viso bisogna avere una pelle del viso senza brufoli, senza lesioni? Allora, come dicevo, l'autoabbronzante tende a accumularsi laddove ci sono delle irregolarità della pelle, degli spessimenti, per cui in presenza di brufoli bisogna stare un pochettino attenti, ma non è magari metterne un pochino meno e valutare come reagisce la pelle. Ricordo anche che dopo aver applicato l'auto abbronzante bisogna lavarsi subito le mani, perché sennò le mani diventano colorate, gialle. Come dicevo, il colore, queste molecole agiscono di più laddove c'è più strato corneo. E dove c'è più strato corneo che sul palmo delle mani? Dottoressa Serri, ma se nonostante tutti questi consigli, queste attenzioni, il mio colore è a macchie, insomma, ho sbagliato qualche cosa, come posso fare? Scrub, provo a grattare, aggiungo dell'autoabbronzante, che faccio? No, aggiungere dell'autoabbronzante non è una buona idea. Si può benissimo fare uno scrub, usare il guantino, il panno di microfibra per lavare. Mi piace particolarmente il panno di microfibra perché fa un bello scrub, ma è molto delicato, quindi non insulta la pelle. E ormai si trovano anche nei supermercati questi pannetti, oltre che su internet e in farmacie. Esatto, bisogna lavarli anche in Italia. Non bisogna lavarli con l'ammorbidente, vero? Non bisogna lavarli con l'ammorbidente, oddio, io li ho lavati anche con l'ammorbidente. E sono andati. Perché tutte queste istruzioni così precise mi fanno un pochino ridere quando si parla di un pannetto per lavare il viso. Però bisogna lavarli velocemente tutte le volte che si usano e poi magari una volta alla settimana vanno messi in lavatrice insieme alla biancheria normale. Durano 3-4 mesi, sono veramente molto comodi a tutte le età, sì. Secondo me. E servono sia per la pelle del viso che per la pelle del corpo. Esatto, quindi esatto. Lo straccetto ci aiuta. Addirittura io ho scoperto un nuovo uso di questi panni. Una volta che sono molto consumati, cioè che sono stati usati per il viso, dopodiché sono passati al corpo, possono essere usati o per la casa o per il cane di casa o il gatto di casa. No, è fantastico. Veramente. Proprio toglie il pelo in eccesso, pulisce bene il pelo, è molto molto molto molto, l'effetto è molto bello. Ah, ma guardi, io ho straccetti in abbondanza perché siamo tre donne, ho anche il cane che è femmina pure lei, quindi guardi, ho tutto l'occorrente. E quindi con i pannetti vecchi mai buttare via perché si ricicla tutto oggi. E possono essere utilizzati con grandissima soddisfazione anche per i pets di casa. Dottoressa Serri, grazie, noi ci sentiamo la prossima settimana, intanto buona giornata, io vado a casa e mi do un po' di autoabbronzante. A presto. Grazie. A presto. E per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, per l'ascolto e vi aspetto come sempre domani dopo il GR delle 11. Buonissima giornata da Nicoletta. Essere e benessere.